avevamo una bella tradizione di donne lavoratrici nell'agricoltura, nelle serre florovivaistiche di Monasterace, e oggi sono senza stipendio da 2 anni, nell'impossibilità per i giovani di trovare lavoro e quindi nella partenza da parte dei giovani, sia laureati che non laureati, verso il nord, si ha un indebolimento costante di quello che è la vita sociale ed economica. Io sono farmacista, già nella prima amministrazione 3 macchine di 2 amministratori, di 2 assessori sono state bruciate, poi a meno di un mese dalla rielezione mi è stata completamente bruciata e devastata la farmacia, poi a fine marzo le pistolate, proprio i colpi di pistola verso la macchina e verso la serranda della farmacia. In terre come queste, infatti, la lotta alle cosche si realizza anche facendo pagare a tutti le bollette dell'acqua o organizzando in un palazzo confiscato ai boss e che nessuno voleva iniziative e progetti che possono diventare occasioni di lavoro. Ed è questa normalità a dare fastidio, perché cambia la testa della gente. Ed infatti nuove minacce sono arrivate anche per il prete giunto da Brescia a Lamezia, Don Giacomo Panizza, per portare speranza e diffonderla pure dal palco di trame. Dopo che a Natale hanno messo una bomba davanti all'ingresso di quella casa, dopo che il 26 febbraio hanno sparato dentro la casa, in cucina, e a Pasqua hanno sparato 2 colpi a 3 o 4 metri di distanza dentro casa. Insomma, ecco, il 29 febbraio abbiamo fatto una manifestazione grandiosa con tantissima gente, perché che ci capiscano che comunque noi non è che ci mettiamo a pagare il pizzo o cose di questo tipo. Queste altre pallottole ci dicono che forse vogliono qualcos'altro. Don Giacomo, lei a chi dà fastidio? Lei e la sua attività in assistenza soprattutto di disabili, migranti, quindi insomma di fasce ulteriormente deboli in una terra già così difficile, quindi nulla a che vedere con la gestione di potere, no, e di soldi. A chi dà fastidio lei? Credo che allora il problema sia proprio quello che tanta gente sta perdendo la fiducia nelle garanzie della 'ndrangheta. C'è la 'ndrangheta che dice vi aiuto io, vi aiuto io, vi aiuto io, perché aiuta poi sottomettendo la gente, invece noi aiutiamo liberandola la gente. C'è un problema culturale, credo. In terre come queste le spalle si voltano alle mafie anche solo con una stretta di mano negata che può fermare il contagio, per dirla col titolo di uno dei libri protagonisti del Festival Trame, a firma dell'ex procuratore Regino Pignatone e dell'aggiunto Michele Prestipino. Quando noi parliamo di contagio intendiamo sottolineare un pericolo, cioè il pericolo che pezzi della società, pezzi di mercato siano esposti alla presenza e all'agire mafioso della 'ndrangheta, luoghi che sono per essa nuovi e che quindi rappresentano territori di conquista. Territori di conquista nuovi, ma che con gli anni sono stati così tanto consolidati da avere oggi anche, e questo è un dato diciamo storico e giudiziario particolarmente importante, anche un pentito di 'ndrangheta al nord, nato al nord. Sì, perché questo è il frutto appunto della stabilizzazione dell'organizzazione mafiosa. La 'ndrangheta si espande secondo un modello di colonizzazione, secondo un modello di clonazione delle proprie cellule criminali e secondo un modello che esporta innanzitutto i soldi da investire, poi esporta la struttura organizzativa mafiosa e con essa esporta anche il sistema di controllo sociale, di controllo del territorio e arriva anche il sistema di relazioni dell'organizzazione mafiosa. Se si volesse concentrare l'aspetto su uno dei settori più importanti della presenza della 'ndrangheta, come quello economico, forse verrebbe da pensare che questo contagio, che concretamente si può tradurre nel pagamento di un pizzo, è quanto ad esempio esisteva già nella Sicilia di Libero Grassi, cioè 20 anni fa. Questo potere si è accumulato anche per la capacità della 'ndrangheta di infiltrare il tessuto economico e quindi di diventare una sorta di soggetto regolatore del mercato. Ed è per tutto questo, ed è in sostanza anche per la propria convenienza, che ciò che succede in questo profondo sud deve interessare all'intero paese e non solo ai nati in questa terra feudo della malavita organizzata più ricca al mondo e allo stesso tempo una delle regioni più povere d'Europa. Deve interessare all'Italia intera, miseria, perché i costi delle mafie, come spiegherà uno dei dibattiti del festival, non sono più sostenibili per l'Italia intera. Cifre, numeri, denunce, nomi e cognomi escono dagli altoparlanti di Lamezia, comune sciolto due volte per infiltrazioni, ma divenuto ora la base di lancio per una nuova antimafia calabrese, proprio come quel Café de Paris, già simbolo della dolce vita romana, poi affare dei boss calabresi e ora ritornato alla società civile. E visto che i simboli sono cruciali nella lotta alle mafie, proprio qui è stata presentata questa seconda edizione di Trame, e anche noi ci saremo, come l'anno scorso, a Lamezia. Era Italia in controluce, torniamo domani ancora alle 6.30 su Radio 24. Domani un reportage importante di Maria Luisa Pezzali sulla presenza della criminalità organizzata nel calcio, in particolar modo si parte dall'inchiesta sul calcio scommesse.